Hashtag Autotrasporti. Buonasera ad Andrea Ferro, ben ritrovati ad Hashtag Autotrasporti del lunedì, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo dell'autotrasporto nel quale si focalizzano i temi al centro dell'attenzione del settore tra dati, spunti di riflessione, analisi e opinioni. Questo programma va in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E partiamo subito con la rubrica del numero. 1062 sono i distributori di metano in Italia. Quindi, come avete sentito, stasera parliamo di combustibili. Dei 1062 distributori di metano, 41 si trovano in autostrada. Con il dual fuel, cioè una miscela omogenea di gas e gasolio, un autotrasportatore può risparmiare fino al 10%. Per chi macina migliaia e migliaia di chilometri non è poco. L'uso del metano garantisce benefici economici e pure ecologici. Anche di questo si è parlato ad Autopromotech 2015, la biennale dell'aftermarket dell'assistenza auto che si è tenuta lo scorso fine settimana a Bologna. Per noi c'era Francesco De Remigis. Un successo quello delle auto a metano che ha superato il 2000% di quote di mercato negli ultimi 10 anni, consumi ridotti, come pure le emissioni e prestazioni ormai comparabili a quelle di vetture che sfruttano altri carburanti. Circa 3 giorni di lavoro in officina per le auto a benzina che vogliono passare al cosiddetto CNG per un intervento che oscilla tra i 1000 e i 2000 euro. Benefici economici ed ecologici che da circa 2 anni hanno cominciato a interessare anche il trasporto pesante con l'alimentazione metano diesel che può portare a un risparmio del 10%. Assicurano gli operatori e un rientro dall'investimento nell'arco di un anno. Di CNG e tecnologia dual fuel si è discusso ad Autopromotech 2015, la biennale dell'aftermarket e assistenza auto che a Bologna ha affrontato il tema con il presidente di Federmetano, Dante Natali. Oggi abbiamo veicoli nuovi OEM direttamente costruiti dai costruttori per il trasporto alimentati a metano, abbiamo la possibilità tecnologica di trasformare quelli esistenti secondo la tecnologia dual fuel, c'è una forbice di prezzo tra gasolio e metano che consente un ritorno in termini assolutamente ragionevoli degli investimenti per gli autotrasportatori e ci sono tutte le condizioni perché anche gli autotrasportatori possano godere dei vantaggi economici utilizzando questo carburante. L'impiego di veicoli dual fuel è però legato allo sviluppo della rete di distribuzione da potenziare mentre crescono i numeri per il cosiddetto CNG. Esiste la rete distributiva di 1062 impianti di cui 41 in autostrada, non sono ancora tanti, quindi quelli dell'autostrada qui c'è ancora molto da fare, però se ci guardiamo un attimo indietro il numero di questi impianti è cresciuto notevolmente e io stesso per esempio con la mia auto riesco già oggi a fare in molti casi rifornimento in autostrada a metano senza più dover uscire. Dal prossimo 11 luglio saranno indette 32 nuove gare per il rinnovo dei distributori in molte grandi città italiane, fa sapere una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, ma ci si era messa anche l'Europa a tentare di penalizzare i rifornimenti a metano. Sentiamo perché. Siamo stati molto impegnati con il Ministero delle Finanze al fine di evitare che una direttiva europea che era in itinere, diciamo, qualche mese fa arrivasse ad una conclusione che sarebbe stata estremamente deleteria per il metano per auto in Italia, dal momento che prevedeva una riparametrazione totale delle accise, cioè delle tasse che sono calibrate sui carburanti e aveva come obiettivo quello di armonizzarla a livello europeo. E questo ci avrebbe penalizzato enormemente, avrebbe avuto come effetto collaterale quello di aumentare notevolmente le tasse su un carburante ecologico come il metano per ridurle in alcuni casi su altri carburanti più inquinanti. Resta il tema del gas naturale liquefatto per cui si deve fare conti con costi elevati. Si parla di 700.000 euro per una stazione di servizio LNG per cui manca tuttora una specifica normativa. Il nostro giro d'ascolto con i rappresentanti delle associazioni che fanno parte dell'albo degli autotrasportatori questa settimana prosegue con Massimo Stronati, presidente di Conf Cooperative. Buonasera Stronati. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Partiamo dalla firma del contratto per gli addetti alla logistica che operano nell'ambito delle cooperative. Un accordo definito storico perché siglato dopo 12 anni. È stato travagliato perché le nostre imprese, le nostre cooperative, in un mercato che è una giungla, con le cooperative spurie, con i committenti che danno sempre gli appalti a prezzi bassi, le imprese non riescono più nella sostenibilità del contratto. I sindacati avevano firmato nell'agosto del 2013 il contratto con tante altre sigle sindacali datoriali e queste sigle prevedono, hanno tra di loro in pancia tante aziende che poi sono i committenti dei nostri lavoratori. Quindi hanno firmato non con la cooperazione, non con il mondo della cooperazione organizzata il contratto allora, ma con un 20% degli addetti, perché la stragrande maggioranza è del mondo della cooperazione. Quindi noi lo vivevamo male questo fatto. Abbiamo ripreso le trattative, il sindacato si è dimostrato attento, un sacrificio da una parte, un sacrificio dall'altra, abbiamo sistemato questa lacuna, però teniamo conto che per le nostre cooperative è un grande, grandissimo sacrificio, perché oggi purtroppo il mercato proprio è arrivato ad una condizione di non sostenibilità estrema. A proposito di contratti e costo del lavoro, Stronati, è di questi giorni la notizia che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Germania per l'applicazione del salario minimo anche ai conducenti di veicoli stranieri che circolano nel paese. Sullo sfondo c'è la questione del dumping sociale. Qual è la vostra opinione dopo l'iniziativa di Bruxelles? La regolarità contrattuale, la regolarità contributiva, la regolarità del personale delle maestranze oggi è obbligatoria in tutti i paesi dell'Europa, perché sennò scaturirà sempre di più una concorrenza sleale. Però bisogna anche fare i controlli. Parliamo ora di infrastrutture. Il caso Sicilia è diventato un po' il simbolo di una rete vecchia, inadeguata e pure insicura. Cosa chiedete al governo? Non è possibile che ci siano poche gare, queste gare siano tutte in qualche maniera poco dotate di fondi o comunque mal strutturate. Chiediamo al governo la riforma del codice degli appalti. Vedete che in Italia ci sono più di 40.000 stazioni appaltanti. 40.000 è un dato folle, troppe, ne basterebbero 40. Per domani all'Expo di Milano, come Confcooperative, avete promosso un convegno sulla cooperazione e i servizi nelle città. Non è altro che dare il messaggio che su questo sistema innovativo, chiamiamolo, delle città metropolitane, la cooperazione c'è, la cooperazione di lavoro e di servizi c'è. Come? Abbiamo studiato bene la normativa, quella attuale, quella che sta per scaturire, quindi quella che andrà tra qualche giorno, speriamo, nelle commissioni preposte, dove noi saremmo come prototipo di impresa cooperativa, consortile o contratti di rete, insieme alla pubblica amministrazione e alle stazioni appaltanti, per dar vita ad un sistema di appalti di convenzioni territoriali. Perché oggi con il territorio si riesce a portare avanti certi problemi a misura delle esigenze del cittadino. Grazie Massimo Stronati, presidente di Confcooperative, e buonasera. Buonasera a voi e grazie. Ed eccoci alla consueta rubrica dedicata al trasporto di un prodotto, di un bene o di una merce. Questa settimana ci occupiamo di farmaci e a raccontarci le caratteristiche di questo trasporto è Elisa Piazzola, direttore generale della Silvano Chiapparoli Logistica. Trasportare farmaci significa in sostanza trasportare salute, quindi è chiaro che devono essere rispettate tutta una serie di normative a tutela della salute dei pazienti, in primis la temperatura di conservazione dei prodotti, quindi i farmaci vanno trasportati ad una temperatura controllata in accordo con quelle che sono le specifiche dei singoli prodotti e fin dal momento in cui escono dai nostri magazzini al momento in cui vengono consegnate agli ospedali o alle farmacie, quindi il controllo delle condizioni di trasporto è fondamentale per garantire l'efficacia poi del prodotto che verrà somministrato. Abbiamo anche la necessità di essere estremamente rapidi nelle consegne, perché molto spesso il prodotto deve essere utilizzato magari il giorno successivo alla nostra consegna, quindi dobbiamo rispettare delle lead time di consegna molto rigidi in modo tale che nel momento in cui il paziente si presenterà per la somministrazione del prodotto in ospedale, in particolare, il prodotto sia sempre disponibile. Veicolare farmaci dalle case produttrici ai depositi fino agli ospedali è un'attività che inevitabilmente ha seguito i progressi della medicina, ma non solo. È cambiato principalmente per le richieste dei nostri clienti in termini di appunto compliance alla normativa, rispetto di standard qualitativi sempre più elevati, rispetto anche di standard di sicurezza. Purtroppo nel recente passato sono avvenuti episodi di furti anche all'interno degli ospedali, per esempio, quindi cose che in passato non si erano mai verificate, per cui ci è stato richiesto di alzare molto il livello di guardia in termini di sicurezza per evitare qualsiasi possibilità di furto durante il trasporto o nei nostri depositi. Quindi quello che i nostri clienti ci chiedono è sempre un po' quello di un rispetto a dei parametri sempre più stringenti, evidentemente. Anche i prodotti in sé sono cambiati, quindi stiamo parlando di prodotti che hanno valori sempre più elevati, e quindi chiaramente il nostro lavoro deve essere sempre di maggior qualità. Hashtag autotrasporti del lunedì sera termina qui. Vi ricordo che a Radio 24 si parla di autotrasporto anche il mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14 con news e aggiornamenti dall'Italia e dall'estero. Da Andrea Ferro, buonasera a tutti. Hashtag autotrasporti.